sulla sponda il cuor ne balza, ma nel mar con la sua tomba, ma la sua tomba. Barbaro desio, dentro il mar del pianto mio, forza e vento di soccombo, di soccombo, ma di soccombo, forza e vento di soccombo, di soccombo. Torrente che si innalza sulla sponda e fuori.